Rahab, una prostituta nella galleria della fede. La Bibbia è un libro onesto che dice le cose come stanno. Narra di uomini e donne che hanno esercitato una fede tanto grande da arrivare a compiere straordinari miracoli, così come di uomini e donne che hanno compiuto le più grandi scelleratezze, ma soprattutto non nasconde gli aspetti umani delle situazioni. Infatti, la Bibbia ci dice che Rahab era un prostituta. Una donna, quindi, che vendeva il suo corpo per denaro. Alcuni hanno cercato di coprire questa triste realtà, affermando che gestiva un'osteria. Forse questo era vero, ma rimane pur sempre che si trattasse di una donna dalla morale corrotta. Qualche storico ha fatto notare che il conto di un oste dai tempi dei Romani era costituito da pane e vino, una moneta romana, pranzo caldo, due monete, paglia per l'asino, due monete. Una ragazza, otto monete. In quei giorni gli osti erano donne e non uomini. È interessante che negli scritti pervenutici raffiguranti dei conteggi che risalgono al periodo romano, una cifra era segnata per il pranzo e per la ragazza, ma il costo del letto non era neanche menzionato. Pare che fosse incluso col prezzo della ragazza. Essa provvedeva a un servizio extra nell'offrire il proprio corpo, e ciò era incluso nel conto. Così Rahab era in attesa dei suoi clienti ed era naturale perciò che le spie di Giosuè andassero da lei. Gerico era una piccola città e l'osteria di Rahab era forse l'unico posto dove poter dormire senza essere notati. Rahab sospettava che questi stranieri, uomini decenti, senza motivi nascosti, fossero israeliti. La Bibbia non lo dice, ma ci racconta di una subitanea azione di controspionaggio intrapresa dagli abitanti del luogo. Il re aveva sentito che delle spie giudee erano giunte in città e diede immediatamente l'ordine di catturarli. Nel frattempo, Rahab aveva scoperto la vera identità dei suoi ospiti e li aveva già nascosti sul tetto sotto dei mucchi di lino. Siccome era il tempo del raccolto e la città era piccola, chi possedeva delle abitazioni modeste doveva usufruire di ogni centimetro di spazio per conservare la propria roba. Un tetto terrazzato era il posto meno ideale per nascondere degli uomini, perché anche a distanza gli altri avrebbero potuto vedere quello che vi succedeva. La casa di Rahab era diversa, perché costruita sul doppio muro della città, e di conseguenza situata nel punto più alto di ogni altra casa. Nessun occhio curioso poteva seguire cosa vi succedesse. Le spie sarebbero state al sicuro, ma solo per un po' di tempo. Rahab ingannò i messaggeri del re, rispondendo che i ricercati erano usciti dalla città. Aveva detto una menzogna, ma di quel genere che Dio approva. Mentre gli uomini di Gerico cercavano nella campagna circostante con attenzione, lei parlò con le spie che aveva nascoste. Disse loro di essere al corrente che Dio aveva dato loro la terra e che gli abitanti di quel paese avevano paura di loro a causa del miracolo della divisione delle acque del Mar Rosso. Rahab sapeva bene che cosa l'Eterno avesse fatto per il suo popolo. Disse alle spie che a causa di ciò che l'Eterno aveva fatto per loro, gli uomini avevano perso il coraggio di affrontare gli israeliti. Rahab diede prova di essere una donna saggia, che agiva nella luce di una giusta informazione. Inoltre, usò discrezione nel parlare con loro e astuzia nel nasconderli. Lei sapeva che una buona azione ne meritava un'altra in cambio. Dal momento che io ho salvato la vostra vita, volete voi salvare la mia e quella dei miei parenti? Naturalmente espresse la sua preoccupazione e nello stesso tempo la sua fede nel Dio di Israele, perché credeva che egli avrebbe lottato per il suo popolo e che avrebbe dato loro questa terra. Considerata la potenza di Dio, credeva pure che lei e i suoi connazionali non avessero la ben minima possibilità di fronte agli israeliti, ai quali non potevano impedire di entrare in città. Rahab agì per fede, chiese un segno, a dimostrazione che, quando le schiere nemiche sarebbero ritornate in città, lei e la famiglia sarebbero rimasti incolumi. Le spie le dissero di mettere una corda rossa alla sua finestra e nessuno avrebbe fatto del male a tutta la sua famiglia. Alcuni commentatori della Bibbia dicono che la corda rappresenta l'occupazione morale di Rahab, era la sua luce rossa e, perciò, non avrebbe destato alcun sospetto. Nessuno avrebbe sospettato che fosse una prova di spionaggio. Questo può e non può essere vero. Prestava comunque una chiara indicazione di un patto tra i due partiti e Rahab non indugiò. Gli uomini avevano appena lasciato la sua casa, che mise subito la corda rossa alla finestra. Voleva essere assolutamente sicura che la sua abitazione fosse riconosciuta fra tutte le altre. Dio si compiace anche di persone non credenti, quando svolgono il loro compito seriamente. Gesù darà dimostrazione di questo più tardi, quando disse ai suoi discepoli che i figli del mondo sono più saggi nella loro generazione dei figli della luce. A volte si impara anche dagli increduli, soprattutto quando questi mettono in pratica le virtù cristiane. La settimana dopo, il popolo di Israele entrò per la prima volta nella terra promessa e il miracolo avvenuto al Mar Rosso si ripeté di nuovo nel fiume Giordano. L'acqua profonda fu divisa in due e gli israeliti camminarono con i piedi asciutti attraverso il fiume Giordano, che a quel tempo era in piena. Alcuni giorni dopo, una gran massa di israeliti marciava silenziosa attorno alle mura del centro abitato. Le porte della città di Ai erano chiuse. Nessun giudeo poteva entrare e nessun cananeo poteva uscire. Questo stato di cose continuò per 6 giorni, durante i quali Rahab assicurò la corda in modo da renderla ben visibile, perché la sua vita dipendeva appunto da questo gesto di fede. Il 7° giorno gli israeliti sfilarono in silenzio intorno alla città parecchie volte. Le loro facce erano solenni. La tensione da entrambe le parti del muro stava diventando insopportabile. Dentro alla città, in ogni casa, la gente guardava il proprio futuro con occhi pieni di terrore e di orrore, eccetto in un luogo. Nella casa di Rahab c'era speranza, c'era fiducia, trepidanza, ma non terrore, incertezza per come sarebbero andate le cose, ma non angoscia. Lei aveva fatto un patto col popolo di Dio e perciò con Dio stesso. Quel Dio che era in grado di salvarla, nonostante tutto. Poi 7 sacerdoti con 7 trombe e con corna di montone fecero il giro della città suonando con i loro corni, e la gente, al comando di Giosuè, cominciò a gridare. Poi l'incredibile accadde. La terra cominciò a tremare. Le spesse mura, che avevano protetto la città per tanti anni, crollarono a terra, lasciando la città senza protezione. Lo scrittore del libro degli Ebrei, più tardi, dirà che la fede provocò il crollo delle mura, ma quella stessa fede aveva fatto sì che una parte delle mura rimanesse in piedi, quella dove stava proprio la casa di Rahab. Entrambe le parti del patto avevano adempiuto al proprio ruolo. Rahab aveva fatto quanto convenuto e Dio aveva ricompensata la sua fede. La sua fede nella vittoria del Dio di Israele era così forte da renderla in grado di convincere i suoi parenti a restare con lei. Ognuno di loro fu risparmiato. Il ritratto della vita di Rahab, macchiato a causa della sua condotta immorale, è nel contempo illuminato da un esempio di fede splendente, una fede forte, al punto da farla agire. Questo era necessario, dice Giacomo quando scrive di lei, perché se la fede non riesce a resistere, alla prova è inutile, è morta. La fede interiore può solo essere riconosciuta dalle azioni esteriori. Una definizione di fede è la fiducia profonda e fissa in Dio e nella sua parola. Rahab aveva questo tipo di fede, perciò Dio prese il suo ritratto rovinato, macchiato, lo purificò e lo appese accanto a quello di Sara, la moglie di Abramo, nella galleria degli eroi della fede. Queste due donne sono le uniche a comparire nella lunga lista di uomini menzionata nella lettera agli Ebrei. Rahab, come Sara, era una eroina della fede? Sì, non ci sono casi impossibili per Dio, il quale giustifica i peccatori. A lui non interessa tanto lo stato morale in cui ci troviamo quando ci parla, piuttosto esige una risposta chiara e precisa, come le prostitute che Gesù additò come esempio per avere accolto il suo messaggio. Molti uomini erano migliori di queste, ma avendo rifiutato il messaggio di redenzione di Cristo, ne hanno ricevuto la condanna eterna. La storia di Rab però non è finita qui. Nella conquista di Gerico è segnato solo l'inizio del suo cammino di fede perché ora lei aveva trovato Dio. La sua vita cominciò a rifiorire. Come prova di una sincera fede, in lei non c'era più nessun desiderio di ritornare alla sua occupazione precedente. Rahab divenne una rispettabile donna di casa. Rahab, una donna pagana, visse tra il popolo giudeo e in più fu chiesta in sposa da una delle spie da lei stessa accolte, un uomo di nome Salmon al quale ella partorì un figlio. Evidentemente, Salmon era andato oltre il passato di Rahab e aveva colto quello che altri non avevano afferrato. Una donna straordinaria e con grandi qualità morali. Se dovessimo valutarne l'efficacia, guardando il simpatico e saggio figlio Boaz, futuro marito di Ruth, potremmo dire che fu una madre esemplare. Saggia, una donna morale, ma non moralista, perché Boaz non avrebbe sposato una pagana. Ruth divenne la bisnonna del re Davide. Rahab è, quindi, antenata di Gesù Cristo, il Messia, un privilegio che ogni donna giudea invidierebbe. Studio facente parte di 21 trasmissioni Donne della Bibbia, tratti da qualche parte e rivisti,